Innamorati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Non avete niente altro da fare? Buongiorno a tutti. Cos'è Walk 12,000 a te? There's bullets flying through the air, and they still carry on. We watch it happen over there, and then just turn it off. We must stand together. There's no giving. Attenzione, tocco di Cascione, calcio di rigore. Arturo Vidal sul pallone. Vidal tocca le ali, ma la Juve in vantaggio, 18° minuto, il primo gol in stagione di Arturo Vidal. Provato a fare linee, palla per Ljajic, geniale, Ljajic solo, Ljajic, l'uomo più discusso in un momento complicato, sblocca la partita al minuto 27, l'assist di Totti, il sinistro di Ljajic, 1-0 per la Roma. Giovinco, bravo a resistere a un contatto, può servire Vidal, la palla schizza ancora per Arturo Vidal, al limite Vidal, doppietta del cileno, non sarà ancora al massimo, ma segna non una ma due volte, Juve 2 Cesena 0. Parte Pjanic a giro, Miralem Pjanic, il vantaggio della Roma a 3 minuti dalla fine, la firma bosniaca di Miralem Pjanic, un gol meraviglioso per il vantaggio giallorosso. Propone Padoin, Lichtsteiner ha tanto spazio, Lichtsteiner 3-0, partita chiusa ora in modo definitivo. Si apre la difesa del Cesena, la beffa Stefan Lichtsteiner. Non devo parlare della partita della Juve? No, vado su Parma-Roma. Abbiamo cambiato argomento, abbiamo fatto uno switch male, allora. Sarà un campionato che giocheremo fino all'ultima giornata con equilibrio, ma non solo tra Juve e Roma, tra l'Inter e Milan stesso, il Napoli anche se in questo momento è un pochino attardato, la Fiorentina, sarà un campionato molto più equilibrato di quello dell'anno scorso, quindi è troppo presto per dire un duello tra Juventus e Roma. Beh, qualcuno magari un po' sdolcinato avrebbe, avrebbe messo un'altra canzone, era già tutto previsto, ma i ragazzi sono giovani, sono carichi. Franco Piantanida, il nostro autore, Roberto Scaltritti in regia, Claudio Schiattone in redazione, e così We When Stand Together Nickelback. We When Stand Together non possono che essere, ma era già tutto previsto, la Roma e la Juventus, 4 giri di pista più 4 sulle avversarie in modo diverso, la Juventus con grande autorità, Allegri che di solito partiva male, ve lo ricordate, il tallone d'Achille di questo allenatore, beh, tutto dimenticato, 4 vittorie, 7 gol fatti, 0 subiti. Non era certamente il Cesena in casa il banco di prova più attendibile, tra l'altro una soddisfazione in più per la Juventus, non solo il ritrovato gol della doppietta del ritrovato Vidal, ma anche un'occhiata a quello che sarà il portiere del futuro, che è stato il migliore del Cesena, Leali, ha giocato una grande partita e sarà lui il dopo Buffon, quindi penso serata ampiamente soddisfacente per tutti gli juventini. Era già tutto previsto anche per la Roma, nel senso che la Roma migliore di questa stagione l'abbiamo vista ovviamente in Champions League, in una partita che aveva nella testa, che aveva preparato, quella è stata la versione più bella della stagionale della Roma, però le grandi squadre vincono come ha fatto quella di Garcia ieri a Parma, campo non semplice, con fatica, senza brillare e con i lampi delle sue superstar. Totti, Ljajic per il primo gol e poi all'ultimo respiro, quando tutto sembrava perduto, ma i campioni ce li hai. Ecco Pjanic che disegna quel meraviglioso arcobaleno su punizione. Comincio a pensare fosse già tutto previsto, e sono tutti interrogativi, domande, questioni, osservazioni, considerazioni che giro a voi, a tutti voi, tutti convocati 80024 0024 come ogni giorno. Comincio a pensare che fosse prevedibile anche l'Inter, terza forza del campionato. Un Inter che trova ha problemi di crescita fatalmente, quindi è un po' ondivaga, certe volte fa un po' il volo del tacchino, si alza, prova ad alzarsi e poi cade. Beh, ieri a Bergamo contro una squadra che nelle ultime due stagioni aveva messo in croce nerazzurri a San Siro, ieri ha trovato delle certezze, ha trovato un grandissimo gol di Osvaldo, che quando è così è un giocatore meraviglioso, un giocatore che ha fisico, colpi, talento, cattiveria, tutto. Ha trovato una conferma in Medel, ha ritrovato solidità difensiva, e di questo l'Inter ha tremendamente bisogno, e ha perfino trovato il gol, anche qui splendido, anche qui su punizione, del giocatore più discusso, e cioè il profeta Hernanes. Quanto al resto, vabbè, ne parliamo tra poco. Traffico. È calato un po' il capitano, è calata la fase offensiva della Roma. Come si risolve questo piccolo problema, diciamo, anche perché la Roma ha costruito anche nel secondo tempo? Si risolve semplicemente, no? C'è solo di dare la palla a Miralem Pjanic e avere una punizione di genio. Tutti convocati. Sempre ed ogni giorno all'800240024, questo è il numero verde. C'è chi via sms mi domanda perché le ali e non Scuffè come erede di Buffon, perché le ali è un portiere della Juventus, Scuffè è un portiere dell'Udinese al momento. Saluto e ringrazio Aldo Serena, Pardo arriva dopo perché è impegnato con i videogiochi. Ciao Aldo. Buongiorno a tutti. Ciao. Senti, dicevamo, sembra già tutto previsto, il campionato ha già una faccia dopo quattro giornate, sono poche, pochissime, confronto diretto tra Roma e Juventus tra 10 giorni, anche qui è molto presto, però mi sembra che la faccia del campionato sia quella, e che la terza forza, dicevo prima, stia sempre più prepotentemente diventando l'Inter. Sì, anche perché quel uno solo nei gol subiti e capocannoniere sono l'Inter e Milan, le squadre che hanno fatto più gol, e quindi un Inter che segna, che subisce poco, non è spettacolare, però è un Inter quadrata, compatta. Quest'anno forse è proprio la squadra nerazzurra più vicina all'idea di Mazzarri. Sì, si diceva che Allegri avesse un problema, le false partenze, quest'anno non mi pare, 4 vittorie, 7 fatti, 0 subiti, Juve che vince come devono fare le grandi squadre, cioè in queste partite senza sprecare più energie del necessario, anche in questo caso con i colpi dei suoi giocatori di classe, e mi riferisco a Vidal. Quindi non vedo grandi problemi, i problemi che si erano visti in precampionato per la Juventus. Beh, non è la Juventus spumeggiante come quella di Conte, però la Juventus è molto essenziale, completa, sì. È una squadra che fa del gioco essenziale la cosa principale, quindi io penso che è una Juventus che potrà dar battaglia su tutti i piani, anche in Champions, ci sarà la battaglia di Madrid settimana prossima e se supererà indenne, secondo me quella partita potrebbe veramente dare un viatico anche al proprio girone di un certo tipo. Visto che siamo a Torino, vista qual è la proprietà della Juventus, possiamo dire che è una macchina che consuma di meno? Sì, che va più piano e forse anche meno spettacolare, insomma, la squadra di Conti ha toccato vertici, secondo me, sì. Assoluti, il 3-0 al Chelsea è stato un delirio, insomma, perché la squadra proprio li ha azzannati dal primo minuto fino alla fine con un ritmo infernale. Questa è una squadra più compassata, che gioca su ritmi più bassi, che ragiona di più, tiene più il possesso palla, però ha anche molta qualità, e devo dire che anche sui nuovi la Juventus ci ha visto bene, perché Pereira su tutti sta facendo benissimo, e non è semplice inserirsi subito in un complesso che ha già vinto, che è forte, che ha già dei riferimenti collaudati. Fondi quella polemica un po' pretestuosa tra Conte e la sua ex società, Conte ha ragione, questa Juventus è più forte di quella che aveva l'anno scorso, perché non dimentichiamo che questa squadra era sua, ce l'aveva in mano prima dell'inizio della stagione. Sì, e non abbiamo ancora visto bene, secondo me, Coman e Morata. Morata sì. Soprattutto è un ragazzo che mi piace particolarmente perché è completo, ha tutto, e quindi ha avuto quello in top dell'infortunio che lo ha frenato un po', ma secondo me a breve riuscirà a conquistare tutti con i gol. Sì, dietro Roma, Juventus e Inter non vedo la Fiorentina, perché è massacrata dalla sfiga e perché sembra sempre una bella adolescente che non riesce a crescere in maniera completa. Il Milan ha le prove tecniche di trasmissione, mi sembra molto fragile dietro. A proposito di fragilità dietro, vabbè, il Napoli addirittura imbarazzante, credo che anche la squadra di tutti i convocati un golletto riuscirebbe a farlo, a Benitez. Beh, devo dire che è una delusione di questo avvio di stagione la squadra partenopea, e sin dalla partita di Bilbao si era vista una squadra senza ritmo, una squadra con motivazioni scarse, ed era la partita secondo me della svolta, quella era uno degli appuntamenti fondamentali della stagione del Napoli. La squadra è arrivata non preparata sia sotto il profilo mentale che psicologico, e secondo me lì ha preso una china abbastanza difficile il campionato di Benitez, anche perché poi sappiamo come si esalti il San Paolo quando la squadra va bene, come però si anche ieri c'erano 25.000 e fischiavano. Ma tu hai la sensazione, vedendola da fuori, che ci sia qualcosa di rotto tra l'allenatore, la squadra, la società, cioè che ci sia qualche frattura dentro quel casino che non è capace di produrre una partita decente? Beh, devo dire che l'atteggiamento di Benitez mi ha fatto pensare più di qualche volta. Le dichiarazioni nel pre-gara di Bilbao, quando ha detto beh sì, si può anche uscire, non cambia, nel mondo non si ferma, si deve andare avanti, quindi non ha dato una particolare carica, non ha messo i suoi con un determinato atteggiamento. E poi la vacanza lì, proprio in un momento difficile di tutta la sua squadra, dell'ambiente, non so, ecco, credo non si veda, ecco, il prossimo futuro a Napoli. Io penso che lui stia così alzando le tende piano piano. Aldo, vorrei chiudere con te parlando di attaccanti, appunto a Napoli. Higuain in panchina, che segnale è? È di turnover, perché di turnover col giocatore più forte che hai. Sì, Benitez pensa questo, però senza tenere presente che ci sono certi momenti della stagione che sono più importanti di altri, e in questo momento l'importanza di giocare con i giocatori, quelli che ti cambiano, quelli che ti danno quell'impulso maggiore per poter vincere le gare, è fondamentale. Ecco, lui mi sembra molto razionale e pragmatico, però in certi momenti bisogna così andare anche proprio di pancia nelle cose. Osvaldo. Osvaldo è un bel, ha fatto un gol molto bello ieri, aiutato anche da un atteggiamento dei difensori di Colantuono, sì, notevolmente deficitario, perché su un calcio piazzato trovarsi a fare una rete da solo in mezza rovesciata così, molto bella, spettacolare, perfetta, però ecco lì qualche cosa ce l'hanno i giocatori di Colantuono. È comunque un giocatore che può fare la differenza, secondo te? Come? Può fare la differenza nell'Inter, in questa Inter, e come tipo di giocatore? Come assemblaggio io vedo molto bene Icardi Palacio, però sì, che si sta inserendo molto bene Osvaldo, perché è una via di mezzo fra i due, può fare la prima, ma non è proprio una prima punta, è più una seconda, non è propriamente uno che viaggia su tutto il fronte d'attacco, rimane più in mezzo, però è completo e se fa quello che, ecco, che ha fatto ieri, io penso che la titolarità se la conquisti proprio così, con i gol. Sì, un'ultima considerazione riguarda il Milan, Torres e il Sharawi, che insomma dopo due partite tutti avevamo detto è tornato, deve andare in nazionale, è il più forte di tutti, eccetera eccetera eccetera, adesso è già finito in panchina. Torres è entrato, ha fatto gol l'altra sera, Pazzini non si alza più dalla panchina, in fondo il migliore è Menez, anche qui qualche problema di assemblaggio per Pippo Inzaghi, Tu che coppia vedresti? Beh, innanzitutto dovrà capire qual è lo schema ideale di questo Milan. Ha molti attaccanti esterni, sì, e ha trovato adesso un attaccante centrale che sembra essere tornato, dico sembra perché qui il condizionale è sempre d'obbligo, sembra essere tornato quello di un tempo, quindi ha giocato molto bene a Empoli, ma anche proprio è sempre stato presente. Io ero lì allo stadio a fare la telecronaca per il Mediaset Premium, e quindi l'ho visto sin dai primi minuti con dedizione notevole, ha fatto cose di alta qualità, è anche altruista. Penso che Torres sia un riferimento molto importante. Ho visto Menez abbastanza svogliato sul settore esterno, sì, e penso anche, sì, che lui adesso non abbia più voglia di sacrificarsi molto la fase non possesso, quindi voglia giocare nel mezzo, e quindi il 4-2-3-1 potrebbe essere lo schema ideale di Inzaghi, quando però troverà anche equilibrio e troverà anche una difesa un po' più affidabile. Ah, sicuro. Grazie Aldo, buon lavoro. Ciao, grazie Aldone. Ciao. 8-0-0-24. 0-0-24. Eccolo il cross verso Osvaldo! Osvaldo! Inter 1, Atalanta 0 al 40esimo. La mitragliata di Osvaldo. 8-0-0-24, la mitragliata di Osvaldo. Parleremo anche di Belotti, ieri ancora strepitoso il ragazzino dell'Under 21 e del Palermo. C'è Andrea da Udine che scrive questo messaggio: Allegri dopo Conte, come Capello dopo Sacchi, mi sembra di rivedere la stessa storia. In realtà solo in parte, perché Sacchi era un allenatore che, è vero, come Conte spremeva, chiedeva l'anima, il sangue, il cuore, i muscoli dei giocatori, e chiedeva anche molto stress, ma non è che Capello fosse in grado di chiedere di meno. Cioè, era un allenatore comunque estremamente esigente, era un allenatore che allenava comunque una squadra pazzesca, è riuscito a proseguire il ciclo, ma non credo usando le stesse armi di Allegri. Allegri è un allenatore invece di estrema intelligenza. Pietro da Milano, poi la borsa, dai Pietro, buongiorno. Sì, buongiorno, due considerazioni se potevo, una un po' più frivola e una un po' più seria. Quella frivola, volevo far notare che tra le big, visto che sono un tifoso della Roma, l'unica senza rigori finora quest'anno è la Roma. Eccola. Dovevamo, sembrava tutto troppo oro, bisogna mettere un po' di pepe. Sì. E mi sembra che Empoli c'era. E poi, tra l'altro, su questo argomento, una rete privata ha contato i rigori dal 2011 a oggi, con i saldi più o meno. Mm-hmm. Il Napoli più 24 rigori, la Roma più 1, l'Inter meno 9. Sì. Secondo me sono dati che bisogna un attimino guardare, perché più 24 in Napoli, mi sembra, cioè tra rigori subiti e rigori concessi, mi sembra un dato veramente forte. E se potevo, una cosa sugli incidenti di Coppa Italia in generale. Mi sembra, insomma, non parlerei di un tifoso morto, ma di un ragazzo morto, prima cosa, perché certo. Qui sembra che, cioè, non è così, non è che è sempre il calcio quello che succede fuori. No, sono d'accordo. È stato un orrendo fatto di cronaca legato ad una partita di calcio, legato a delinquenze e criminalità comune, con ogni probabilità. Quindi solo dopo metto giù, perché in questo paese siamo riusciti a far passare l'omicidio del povero Gabriele Sandri, che è successo a 300 km dallo stadio, come una morte dello stadio. Certo, concordo. Non dimentichiamo che il calcio ogni domenica, ogni settimana muove una enorme quantità di persone. In questa enorme quantità di persone c'è un numero più o meno fisiologico di delinquenti che soprattutto oggi svolgono la loro opera di delinquenti comuni a scopo di lucro, e quindi è molto semplicistico dire cose, scontri, questioni esclusivamente legati a quel demonio che è il calcio. È un discorso molto profondo, non può essere, mi rendo conto, risolto così, ma se volete poi continuiamo. 8-0-0-24-0-0-24, traffico, poi Carmine, provincia di Como. Convocati. Non so se Pardo si sia addormentato sulla cacio e pepe, con la faccia dentro la cacio e pepe, come suggerisce Paolo da Prato, ma dopo il GR delle 15 glielo chiediamo. Carmine, provincia di Como, 800 24 00 24, numero verde. Perché non fai una puntata inchiesta sui gay nel calcio e perché non vengono fuori allo scoperto? Beh, un giorno magari, forse, Danilo da Milano. Dopo te ne racconti invece una riguardo i gay, però... Riguardo un calciatore strambo, si chiama Tino Aspriglia, ve te ne parlo dopo. Carmine, buongiorno. Buongiorno Genta e ai radioascoltatori. Senta, dopo l'immobilismo di De Laurentiis, no, sul mercato, mi sconcerta la posizione del presidente, che non prende provvedimenti, no? Sembra quasi disinteressarsi di quello che sta succedendo a Napoli. Eppure io mi ricordo un paio di anni fa la Samp che fu eliminata dai preliminari e poi andò a finire B. Non è che corriamo lo stesso rischio alla fine, cioè di una stagione molto negativa? Sì, molto negativa può essere, non a quei livelli. Non credo proprio che De Laurentiis si stia disinteressando adesso. Nei suoi affari affaccendato, ma credo che stia pensando a Napoli giorno e notte. Allora, io continuo a credere che qualcosa, ma tra poco parliamo di Napoli, perché ce l'abbiamo in scaletta, perché mi sembra l'argomento di questi giorni, di questo inizio di campionato. Ha visto giusto un caro amico e collega con cui poi ci confrontiamo, che ha parlato della necessità di psicoterapia per il Napoli, perché non è possibile giocare in questo modo, non è possibile avere questo tipo di fase difensiva, non è nemmeno lontanamente possibile, e Benitez deve, insomma, al di là delle sue certezze, dei suoi dogmi e anche un po' della sua presunzione, perché diciamoci la verità, quando le cose funzionano in questa maniera non puoi affondare lentamente insieme alla barca, qualcosa va cambiato, certamente non cambi le cose in un momento così difficile facendo turnover, mandando in panchina il tuo giocatore simbolo, il tuo giocatore più forte, cioè Higuain. Continuo a pensare che dentro a quello spogliatoio e dentro a quel gruppo, e probabilmente tra una parte di quel gruppo e il suo allenatore, qualcosa si sia spezzato. Non ho certezze invece su quali siano i rapporti, posso avere solo delle idee conoscendo De Laurenti, su quali siano i rapporti tra la presidenza e Benitez, rapporti che erano molto solidi, ma poi bisogna anche fare i conti con i risultati. Allora, vogliamo parlare di Napoli? 800240024 anche con voi? Vabbè, facciamolo. Centralmente, gran pallone, Maxi Lopez può colpire! Maxi Lopez dopo la traversa, questa volta non sbaglia, il Chievo in vantaggio, primo gol con la maglia del Chievo per l'argentino. Parte di Natale a piovere, Koulibaly la tocca, poi deviazione, il vantaggio dell'Udinese, Danilo 1-0, 1-0, Danilo, il vantaggio dell'Udinese. Traiettoria forte a cercare Belotti, torna in partita il Palermo con il primo gol in Serie A di Andrea Belotti, 2-1, e il gol del Palermo ancora per la terza volta consecutiva, è il muto Franco Vázquez, con il tacco Vázquez, Verdibala, cerca Belotti, 3-3, ancora il Gallo, alza di nuovo la cresta. Gallo Belotti, è stato bello comunque che sia stato lui a mettere il coltello nelle ferite del Napoli, questo ragazzino italiano con la cresta, personalità, una faccia pulita, gran bel giocatore, centravanti dell'Under 21, ora acquisito a titolo definitivo dal Palermo, era della Dino Leffe. Ebbene, Belotti senz'altro, ma il Napoli no, e la sensazione è sempre quella che ci siano cocci da tutte le parti. Stavo riflettendo anche sul rapporto certamente spezzato e sbriciolato tra il Napoli e il suo pubblico. Ieri c'erano 26.000 spettatori al San Paolo. Mi faceva notare Franco Piantanida che il Napoli, che è il Napoli, e con le stagioni che ha fatto, 8.000 abbonati. Tanto per avere un termine di paragone, Sassuolo ne ha 7.000. Il collega e amico che ho citato prima, Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera. Ciao Ale. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. E attacca il suo pezzo di oggi così: più che al cuscino, cui di solito affida l'ispirazione finale per la formazione, Rafa Benitez dovrebbe affidarsi al divano. Il suo Napoli è infatti un perfetto caso da psicanalisi pallonara. Vai avanti tu. Questa è la verità. Squadra che deve fare, che deve riflettere dentro su se stessa, insomma, i propri problemi. Un perfetto caso appunto di psicanalisi, perché i problemi stanno dentro. Del resto, guarda, l'ha detto Rafa Benitez ieri alla fine, ha detto ci manca la serenità. E questo mi ha sorpreso, perché lui, lo sappiamo, no? È un empirista, è uno che si basa sui numeri, un uomo cartesiano. Invece per la prima volta ha ammesso che i problemi stanno altrove, cioè dentro questa squadra, questa struttura, questa società che secondo me non ha ancora metabolizzato, e chissà se metabolizzerà, il crack della Champions League. perché? Sì. Perché quello era lo snodo fondamentale. Se tu ricordi, l'anno scorso De Laurentiis continuava a dire: abbiamo internazionalizzato il Napoli, no? Perché c'era Rafa Benitez, Higuain e compagnia bella. E tu capisci che questo processo si è interrotto in maniera devastante. E io credo, anzi sono certo per quello che vedo, ma insomma non è neanche una tesi originale, che loro non abbiano metabolizzato questo disastro calcistico, e ora ricomporre i coci, come dicevi tu, è difficilissimo. Ma coci mi sembra che siano un po' da tutte le parti, perché Rafa Benitez dice: siamo depressi, siamo demoralizzati, eccetera eccetera, però la sensazione è che, almeno che io dall'esterno, è che ci sia la squadra, una parte della squadra che non lo stia più seguendo. Mi sembra che lui stia facendo una pericolosa professione di integralismo. Mi sembra che in un momento così complicato il fatto di fare turnover, se alla vigilia si era parlato di questo turnover di Benitez, levando il tuo giocatore più simbolico, più rappresentativo, lascia stare che può essere stanco, può non essere in condizione, può essere depresso pure lui, ma Higuain, cioè devono giocare lui e altri 10, soprattutto in una situazione di difficoltà. Il rapporto con il pubblico è sbriciolato, ma lo era già da prima, perché è un po' che c'è questa contestazione tra il pubblico napoletano e De Laurentiis. Rimane un ultimo tassello, o forse un ultimo filo, cioè il rapporto tra Benitez e De Laurentiis. Sì, guarda, andando con ordine, il pubblico è vero, e tra l'altro il San Paolo vuoto diciamo fa ancora più male di un San Paolo che contesta, perché quell'enorme arena desolata e anche un po' fatiscente, insomma così vuota, veramente inquietante, quindi credo che non sia bello giocare lì. Su Higuain hai ragione. E poi paradossalmente ieri il Napoli ha fatto 3 gol e Zapata è stato uno dei migliori. Sì. E sul rapporto Benitez De Laurentiis lì l'esegesi continua, c'è chi dice che resistono, c'è chi dice che sono ai ferri corti da mo. Una voce abbastanza consolidata dice che Benitez avrebbe voluto andarsene già prima dell'inizio della stagione. Insomma, tu senti, capisci, ma io credo, Ale, conoscendo De Laurentiis, che i rapporti non siano buoni. No, ma hai la sensazione che Benitez si stia cercando brutalmente, stia cercando di farsi cacciare? Sai che questo pensiero corre nelle menti di molti. Io non, cioè, voglio sempre pensare che poi il professionista che c'è in queste persone non porti a questo. Sicuramente, sai, tu di te dici: non ho mai comprato questo, non ho mai comprato quell'altro, mo ti faccio vedere che cos'ho, cioè Zuniga laterale per esempio a Udine. Però io non credo che nessuno, insomma, poi si dia così la zappa sui piedi. Ieri la formazione era abbastanza stressata, a mio avviso. Poi Higuain, tu hai ragione, deve di Higuain. Però ti ripeto, Zapata poi ha fatto una buona partita, il problema è questa difesa, e lì il problema non è solo il mercato, a mio avviso, ma è proprio una squadra male allenata. Ieri io lo sostengo da Bilbao. Al di là della stima che puoi avere su Benitez in assoluto, qui non è che si contesta l'uomo, l'allenatore, ma in assoluto, in questo momento però secondo non sta lavorando adeguatamente. Guarda, l'esempio ieri è venuto dal secondo gol del Palermo, identico, sì, se andate sì, a confrontarvi, sì, a quello preso dall'Athletic Bilbao, cioè sfondamento destra, palla dentro all'indietro e giocatore che arriva a rimorchio. Ora, due gol così in fotocopia, in genere no, uno dice dagli errori si impara, dagli sbagli si impara, si lavora, poi per carità si sbaglia, per l'amor di Dio, si sbaglia anche tanto nella vita. Però è chiaro che ci sono dei meccanismi che non funzionano. Oppure il gol di testa su corner. Quanti ne ha presi il Napoli? Tanti finora. 11 gol in 7 partite ufficiali, sì, è un bilancio che non è sostenibile. Tu guarda quanti gol hanno preso Roma, Juve o Inter. Ale, continuo a ripetere dall'inizio, cioè dal doppio confronto con l'Atletico Bilbao, che è stato preparato in maniera pessima da Benitez. Sì. Che poi il mercato sia diventato qualcosa di pretestuoso, no? Un pretesto un po' per tutti. E non mi hanno fatto mercato, allora sono arrivato così, e allora non ho il mercato, non ho i giocatori. In fondo, la vera grave perdita del Napoli rispetto alla scorsa stagione è quella del portiere, cioè da Reina a Rafael c'è una grande differenza. Per il resto non mi dire che Berami, Pande, buoni giocatori eccetera che sono andati via, sono quelli che ti fanno la differenza. Altri non ne sono arrivati, ma il Napoli comunque resta una squadra in grado di competere, certamente non per lo scudetto ma per il terzo posto. Sì, in questo momento non lo fa, non lo può fare. Esatto. Poi chiaramente per il terzo posto non è certo finita la corsa, perché no, siamo all'inizio, però hai ragione, io questo lo sostengo da tempo. Personalmente credo che si sia persino un pochino indebolito. Reina poi aveva una leadership riconosciuta da tutti, proprio in termini come dire, di personalità, no? Cioè era uno dei leader dello spogliatoio, ascoltato, riconosciuto. Al di là di questo, tecnicamente era migliore, ma insomma il problema è quello che dicevamo, cioè l'allenamento della squadra. E io credo che il Napoli con l'Atletico Bilbao allenato, cioè così fuori forma come si è presentato, non avrebbe passato il turno neanche se avesse avuto non so, Xabi Alonso, no, sì, dico un giocatore, uno solo di cui si era parlato, che poteva, cioè per dirti, Xabi Alonso al posto di Gargano. Adesso magari qualcuno dirà questa è una scemenza. No, io invece è vero. Anch'io, perché il Napoli non è mai squadra, cioè l'11, la struttura che non funzionava. Non poi è mai entrato con la testa in quella partita. Perfetto, non era pronto a cominciare dalla testa per quel doppio confronto. E la responsabilità è, spiace dirlo, ma di Rafa Benitez. Ale, grazie. Ti abbraccio. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Alessandro Pasini. Tutti convocati. Sono tutte cazzate. Malachia Gattuso. Malachia. Chi è che voleva? C'era qualcuno che voleva ascoltare il gol del Torino? Ce l'abbiamo il gol del Toro di ieri? Via. Parte Gazzi, uno schema. Quagliarella, un gol semplicemente magnifico del Torino che ribalta il risultato al 29esimo minuto. Toro che ieri ha vinto a Cagliari, e Cagliari che ha una pessima faccia, Zeman mi sta deludendo anche quest'anno, anche questa stagione, anche a Cagliari, sempre molto pubblicizzato, molto ricercato, molto reclamizzato, ma questo Cagliari non mi sembra un granché. Alessandro Torino, buongiorno. Tanto buongiorno. L'ultimo in classifica, appunto. Non è un granché di sicuro. Dica. Grazie per la convocazione. Grazie a lei. Volevo sapere una domanda. Secondo lei l'Udinese, sì, quest'anno col patto di Stramaccioni e in futuro lo stadio nuovo, l'Udinese potrà negli anni successivi ad ambire a grandi traguardi? E poi un'altra domanda, se posso. Sì. La perfezione l'ho vista quest'anno nella finale di basket tra USA e Serbia. Ho visto dei tiri da tre continuamente in canestro. Non ho mai visto una perfezione così. Capita quando i tiratori sono on fire, succedono anche di queste cose. Ora non le so dare un commento. A me è capitato diverse volte di vedere partite in cui i tiratori sono in grandi condizioni. Me ne viene in mente una storica che riguarda un mio amico attuale allenatore della nazionale serba, seconda ai mondiali. Mi viene in mente una finale di un europeo contro la Lituania di Sabonis, una quantità di giocatori mostruosi in campo da fare impressione. Sasha Georgievich ne segnò 42 tirando 9 su 11 da 3 punti, quindi sono notti che capitano, che succedono. Quanto all'Udinese, io continuo a ripetere che l'Udinese, dal mio punto di vista, è il modello ideale di gestione del calcio in Italia. Quindi lo stadio nuovo ci sta arrivando, lo sta costruendo. Una politica che tutti conoscete, improntata sui giovani, su un grande settore, su una grande operazione di reclutamento, sulla valorizzazione dei giovani, sulla cessione di quelli bravi ma senza troppi sconti, perché Pozzo può permettersi comunque ogni volta di fare il duro. Secondo me l'Udinese è il modello perfetto di gestione per un club di quelle dimensioni del calcio. Credo che però questa sia la sua dimensione, credo che questa, che è eccellente, sia la sua dimensione. Vincenzo, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno signor Carlo. Buongiorno signor Vincenzo, come sta? Allora volevo dire che mi avete convocato nel momento più sbagliato che c'era. Ma perché? Che è successo? Perché mi sono rotto una vertebra. Oh santi Dio, come ha fatto? Sono caduto dalla scala lavorando, e sai com'è. Chi lavora si fa male, chi non fa niente. Ma guarda, chi non fa niente di solito si fa niente. e non sbaglia, Quelli che lavorano sbagliano, cadono, si fanno male, eccetera. Gli altri, se uno sta seduto tutto il giorno, non succede niente, si preoccupa. Esatto. Ma adesso va meglio le cose, Ho cominciato a camminare 2 giorni fa, ma sono pieno di dolori, è durissimo. Dai, portiamo pazienza, Vincenzo. Sì, ce la metto tutta. Dica. Ascolti, voglio parlare del Milan. Sì. Ti volevo dire che la Juventus è diventata grande anche dagli errori che ha fatto il Milan. iniziando da quando hanno ceduto Pirlo, non hanno comperato Tevez, non hanno venduto Pato, hanno poi Allegri ha fatto giocare Thiago Silva nella finale di ritorno di Coppa Italia, che poi si è rotto, e da lì non ha più giocato per tutto il campionato, sì. Abbiamo perso Coppa. Vincenzo, però stiamo andando indietro da morire, cioè stiamo facendo la genesi della discesa del Milan fino al punto attuale. È tutto corretto, credo ci sia però di più, cioè stia nel fatto che la proprietà ha deciso di seguire, diciamo, altre politiche economiche e finanziarie. Ci fermiamo, Bet Corner, GR, poi arriva Pardo e vediamo se si è addormentato nella cacio e pepe. Quote e pronostici. La quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con la gara dell'Olimpico tra Lazio e Udinese. Biancocelesti reduci dal KO di Genova, ma favoriti secondo Snai. Per la vittoria del match l'uno infatti è quotato 1,85. Il successo dei fiorentini stramaccioni, che vogliono dar seguito ai tre punti tenuti contro il Napoli, è quotato 4,25. L'X invece per questa partita è quotata 3,50. Interessanti anche le quote del gol, quotato 1,78, e del no gol, quotato 1,92. È possibile anche indovinare il nome del primo marcatore tra Lazio e Udinese. Nei biancocelesti spiccano i nomi di Klose, quotato 5, di Keita e Candreva, fresco di rinnovo, quotato 8. Nell'Udinese interessante la quota di Totò di Natale, quotato 7, Muriel 8, Terò addirittura 15. In campo anche la Liga questa sera con Espanyol Getafe, che si gioca alle 20, l'1 è quotato 1,70, l'X è a 3,50, il 2 invece è quotato 5,25. Questa era l'ultima delle quote Snai di oggi, ci risentiamo domani. Ma tutti convocati. Ma io credo che ci sia spazio e posto anche per qualche altra squadra per potersi inserire, e quando dico questo intendo sempre, non so, squadre come l'Inter, squadre come il Milan che non hanno impegni europei. E poi penso anche che una squadra come il Napoli non può essere già moribonda in partenza. Io credo che il Napoli un colpo di coda e un segnale importante da qui alla fine del campionato lo darà. Beh, a me sembra moribondo il Napoli. Ma me ne frega niente, me ne frega niente. 800 24 00 24, c'è qualcuno preoccupato, era preoccupato per Pardo, non è che si è addormentato nella cacio e pepe, ma ha scritto un ascoltatore, non credo, no? No, trova campale ma bella, campale ma bella, perché presentiamo il videogioco stasera, c'è Titaca, quindi riunioni la redazione di Titaca, siamo riuniti tutti. Sì, infatti non ti sento come al solito. Non ti sento. Luigi, te lo allora, giuro. Chiamatemi al fisso. Al fisso. 02 Nertianez 48 Zip. Abbiamo perfino le invasioni di campo. Vabbè, qui vale tutto, ragazzi. Qui vale tutto. Basta. Qui vale veramente tutto. La Piantanina. Musica soave. Dei mondiali che, di pallavolo. Un'altra volta. Tutti i giorni. Radio 24. E con i mondiali di pallavolo. Ma Pierre è andato, volevo chiedergli una. Adesso lo chiamiamo al fisso perché non si sente. 3-0 anche la Croazia, Ciccio. Seconda vittoria di fila. Beh. No, volevo dirtelo. Siamo all'inizio, siamo all'inizio, chi incomincia? È a metà dell'opera. Opera. E la sentiamo, la protagonista. E non ha giocato la prima partita. Leo Lobianco, 526 presenze in nazionale. Sulla partita di ieri. Oggi ci sono stati dei momenti in cui eravamo un attimino insomma in rincorsa, però se siete brava a rimanere con la testa, ci sono stati dei cambi che hanno avuto grande effetto secondo me. Comunque penso che questa sia una squadra di veramente di 14, poi 12 in panchina, perché ogni volta che qualcuno entra dà il suo apporto, quindi c'è bisogno anche di questo per vincere. I vostri tifosi dicono che siete una squadra che non molla mai, è vero? Sì, siamo una squadra che non molla mai, sicuramente. Non siamo come il telefono di Pardo che invece ci molla ogni 5 minuti. Salvami tu, ormai qui vale tutto, eh. Qui entra chi vuole, sì. Dopo arriva Piantanera ai mondiali di pallavolo. Se cade il telefono io entro e parlo dei mondiali di pallavolo, basta, abbiamo parlato un'ora di calcio, basta. Salvami tu, Pardo. Vuoi dire... No, ieri eravamo sotto 20-16 nel primo quarto, abbiamo reagito e abbiamo vinto la partita 3-0. Anche nei momenti di difficoltà, come te lo dicevo ieri, due cambi. L'ha detto Lalo Bianco, siamo in 14, siamo una squadra. Ciao, sì. È la seconda partita. Stasera, terzo appuntamento con l'Argentina, Rai Sport 1. Mondiale di tutti volley. A guardare mondiale di volley e poi Tiki Taka che parlerà monografica. Beh, come al solito. È il mondiale di volley. Impazzito da tempo. Stasera monografica di Tiki Taka sui mondiali di volley che si gioca in Italia, mondiale di volley. Sì, sì, sì, vero? Stasera facciamo tutto volley. No, stasera abbiamo Chi ti schiaccia è il programma del Passaretti, abbiamo The Bellis, abbiamo il signor Cruciani, abbiamo sì. Alba Parietti. A salutarci Barbara D'Urso qualche minuto a parlarci del Napoli, poi faccio Auriemma contro Sollazzo. Auriemma contro Sollazzo è sempre divertente. Benitez pro e contro, poi adesso stiamo andando a trovare Higuain, speriamo che ci dica qualcosa. Che vuoi che dire? Non ha fatto giocare, cioè secondo me è pazzesco. Su questo, poi nel Napoli abbiamo già parlato un sacco, magari viriamo su altri argomenti, tipo che cosa hai mangiato a pranzo. No, guarda, ho mangiato insalata di riso al volo e ananas. Questo ti racconta un po' tutto della veramente giornata. Ma è quasi sempre così, ma è una roba assurda, perché faccio queste riunioni per Pittaga con i 57 redattori fin dalle prime luci della mattina, e quindi poi si finisce tardissimo. E poi ho messo il faccione al TG di Sportivo e poi basta. E poi insalata di riso e ananas. Grande depressione. Vabbè, non buttiamoci giù, giù. Insalata di riso e ananas, su, fa il bravo. Sul Napoli, per inciso, poi ovviamente c'è Fabio da Napoli, manca dirlo, Nicola provincia di Chieti, facciamo parlare Fabio, va. Fabio, buongiorno. Eccomi, buongiorno, grazie per l'opportunità. Volevo concludere sul discorso del Napoli, dicendo che secondo me il problema del Napoli sono, o meglio, i problemi del Napoli sono due problemi e mezzo, mi spiego meglio. Secondo me i problemi del Napoli sono a centrocampo, e infatti Benitez voleva Mascherano, e secondo me i due terzini. Per quale motivo? Perché Maggio e Zuniga sono offensivi e per il modulo del Napoli avere solo due difensori mi sembra un pochettino inopportuno. Sì, però a questo punto si cambia anche il modulo, o si pensa di cambiare il modulo. Nei momenti in cui le cose vanno in questa maniera, magari una pensata, una revisione del pensiero dogmatico di Benitez potrebbe anche starci. E questo dovrebbe essere un atto, diciamo, di consapevolezza della squadra, che non è in grado di avere questo modulo. E poi il mezzo problema è il portiere, perché secondo me mezzo perché Perin era nostro, quindi dovevamo fare solamente un mezzo sforzo per trattenerlo ed avere comunque un portiere carismatico lì dietro, con una difesa ballerina tra virgolette, perché spesso si ritrovano lì nei calci d'angolo o calci da fermo a prendere gol. Quindi ripeto, Arbeloa, Mascherano e Reina sono i tre sarebbero state le tre soluzioni al problema. De Laurentiis purtroppo non ha voluto fare lo sforzo economico per gli ingaggi e ci ritroviamo con due terzini che non sanno fare i terzini difensivi, perché Reina è un centrale, Goulam non sa difendere, e poi a centrocampo Hiller e Gargano, secondo me, per una squadra che vuole puntare allo scudetto Infatti il Napoli non può puntare allo scudetto. Intanto erano 18.521 gli spettatori a San Paolo ieri sera, a Napoli a 8.000 abbonati, Sassuolo 7.000, mi segnalavano 7.000 anche il Perugia, 11.000 al Bari, sono numeri che testimoniano una profonda frattura. Posso dire una cosa, premesso che poi ognuno fa quello che gli pare, io non mi permetto mai di giudicare, ognuno spende i soldi come vuole, ci mancherebbe, insomma, nel rispetto degli altri ogni decisione. Vabbè, hai fatto questo cappello per dire che poi alla fine gli 8.000 abbonati sono pochissimi, cioè il Napoli non è che viene da una serie di annate drammatiche, la campagna abbonamenti è cominciata ben prima del preliminare con l'Athletic Bilbao, insomma io mi aspettavo qualcosa di più. Adesso al di là di tutto, la campagna acquisti non è stata all'altezza, va bene, l'inizio della stagione è stato così, ma la campagna abbonamenti c'è stata prima dell'inizio della stagione, per cui questo mi sorprende abbastanza, conoscendo il calore, l'amore del pubblico di Napoli, mi sorprende molto questa cosa. Sì, sorprende molto anche a me, e mi ha sorpreso molto anche l'esclusione di Higuain. Cioè, voglio dire, come leggi questa mossa di Benitez? Momento di grande difficoltà, secondo me, metti che fosse affaticato, ma anche se era affaticato, ma chi se ne frega? Cioè, è la superstar della squadra, sei in un momento in cui tutto va male, levi il tuo totem? No, no, appunto, non ha nessun, cioè, non ha allora, senso, non ha o senso. Meglio, o meglio, ha senso in un momento tranquillo, cioè secondo me le scelte che ha fatto in un momento tranquillo, in sì. questi giorni, in un momento tranquillo sarebbero state assolutamente, anzi le avremmo forse lodate come scelte illuminate, la rotazione degli uomini nella maniera giusta. Diciamo che lui non ha fatto nessun adattamento e nessun compromesso con il momento difficile che vive la squadra. Questo è evidente. Senti, l'ho chiesto prima a Pasini, che ieri sera ha scritto della partita su Corriere della Sera. Benitez si vuole far cacciare, secondo te? Cioè sta lavorando come uno che dice vabbè, le mie idee sono queste, non le cambio, e piuttosto vado a fondo. Guarda, secondo me lui non è che vuole farsi cacciare, io questa cosa non la penso. Sicuramente lui non ha approcciato questo momento difficile con l'atteggiamento di chi fa un passo indietro e quindi va incontro a delle scelte più razionali, più logiche, più popolari, più vicine a quelle che sono i desiderata della società. Da questo punto di vista continua a scegliere come gli pare e continua a fare molto turnover e le cose stanno andando male. Sì. Juventus e Roma vincono come fanno le grandi squadre. La Juventus, poi discutiamo, rigore che non c'era, ma poi te lo dice Cesare, tutte ste robe le lasciamo a lui, poi non c'era quello, ce n'era un altro. Sono pennellate su questo quadro che dice che la Juventus vince come fanno le grandi squadre, altro che di difficoltà del dopo Conte, 4 vittorie, 7 gol fatti, 0 subiti, eccetera eccetera, tutti i numeri sono dalla parte di Allegri, dà un'immagine di grande solidità, di ritrovata freschezza anche. La Roma vince in un modo diverso, ma sempre da grande squadra, e cioè soffrendo come una bestia sul campo del Parma e sul campo di un Cassano un po' rotondetto, per inciso. Allora adesso tu devi fare tra me i fatti tuoi. Faccio i fatti miei. Tre gol in tre partite. E allora? Che è rotondetto o no? Ma lui è sempre. È un po' più rotondetto dell'anno scorso. Cioè del... Ma dai, ma che c'è? Con te si può parlare, non si può parlare. No, come lo so, è rotondetto. Boh, sì, adesso sì, è un po' più rotondetto. Dai. Però se non sta andando male, tre gol in tre partite, dai. No, non sta andando male, non sta andando male. Si porta a spasso 5 kg di troppo, ma non sta andando male, sta andando bene. Magari. Bravo, Cet, mi stai simpatico, bravo, come sto andando? Malissimo. No, la Roma come fanno le grandi squadre, cioè soffrendo le pene dell'inferno e poi con i lampi delle sue superstar. Ma è così che si fa, no? Il Totti che innesca gli Aic, e poi quella, quando tutto sembrava perduto, Pjanic che ha un piede da favola disegna quell'arcobaleno. Beh, la Roma ha sofferto, diciamo, più della gestione normale di una grande squadra, nel senso che la gestione normale di una grande squadra è sicuramente affidarsi anche al talento dei singoli, ma risolverla prima. La Roma all'88esimo stava sull'1-1 e quindi... Quindi secondo me non è stata una gestione proprio comoda e serena della partita. Per nulla. Ecco. Per nulla. Detto questo, poi è uno di quegli episodi, il gol di Pjanic, che magari se le cose andranno in un certo modo verrà ricordata come una delle svolte della stagione, perché sono due punti che pesano. Certo. La Juve ha la stessa identica capacità, secondo me, di trovare la soluzione. Penso al gol contro l'Udinese l'anno scorso, all'ultimo secondo di Juve-Udinese. No, Le grandi squadre fanno così. Certo, le grandi squadre fanno così, è statisticamente più probabile che una grande squadra possa trovare la grande giocata, certo, perché hai grandi giocatori. Certo, è la parissiano, insomma. Sì. In assoluto sul piano della prestazione sei in pagella, 3 punti, e tra 10 giorni c'è il confronto diretto, un confronto diretto che è prestissimo, però secondo me potrà avere un certo peso emotivo, come fu quello della Befana dell'anno scorso. Era presto anche allora, però ebbe un peso emotivo determinante. Assolutamente, no, avrà un peso importantissimo, anche perché in questo momento noi siamo curiosi, no? Siamo curiosi. Io diciamo che il vantaggio lo do sempre alla Juve per un discorso di tradizione degli ultimi anni, cioè la Juve, per quello che ha vinto gli ultimi anni, per me è la testa di serie numero 1 del campionato. La Roma è chiaramente la testa di serie numero 2, e come nelle grandi finali del tennis, quando arrivi all'atto, alla sfida diretta, ti fai delle domande e sei curioso di sapere se l'allievo ha superato il maestro. Questa è secondo me la situazione di questo momento. È molto importante anche, secondo me, sottolineare che nella Roma ieri sono arrivati i gol di Pjanic e Ljajic. Quello di Ljajic è un gol importantissimo dal punto di vista personale, individuale, perché stiamo parlando certamente di un giocatore che sta faticando molto. Quello di Pjanic in qualche modo è la conferma della qualità di questo giocatore, che nelle ultimissime uscite era stato buono ma non così straordinario come in altre situazioni. Ieri secondo me ha dato una dimostrazione, però, come direbbe il mio amico Guido Meda, che c'è, ecco, c'è. Pjanic c'è. C'è, Pjanic c'è. 4.000 abbonati al Padova in Serie D, intanto mi segnalano tutti gli ascoltatori, ed è interessante raffrontare con quegli 8.000 abbonati del Napoli. Nicola Chieti, ricordami Pier, che dopo ti chiedo una cosa su Zeman. Nicola, provincia di Chieti. Eccomi, salve, è interessante tutto quello che avete detto, mi dovete aiutare un attimino, lei o Pardo? Volentieri, insomma, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare per lei? È un dilemma, vi dovete far capire per quale motivo l'amico mio Gagliani, che non ci riesco mai a parlare direttamente, non compra un difensore che si chiama difensore. Come mai non ci riesce a parlare direttamente? È semplicissimo. Io per questo è l'aiuto che volevo. Le do il numero. Le do il numero 335-6498 Inxabrantzunt. Non è questo, neanche l'inizio è questo. Perché non compra difensori? Bella domanda. Quest'anno ha comprato un difensore che è Alex, che secondo me è un buon colpo di mercato a parametro zero. Non è il giocatore di qualche anno fa, ma è un giocatore sul quale io scommetterei, perché comunque ha grande esperienza, grande senso della posizione. Secondo me è un giocatore che può fare molto bene per quella che è la realtà del campionato italiano. Non ho capito perché lo dobbiamo spiegare noi. Gagliani è all'ascolto, ci chiama e glielo spiega lui, tanto è suo amico, no? Certo, quindi certo. Caro Gagliani, 800240024, numero verde, e risponda al suo amico che non riesce a contattarla telefonicamente, non so perché. Marco da Torino, buongiorno. Ciao. Juve o Toro? Juve. Infatti Juve, assolutamente Juve, molto contento, anche se vi devo dire che quest'estate, dopo le prime uscite, ero molto dubbioso sulla gestione Allegri, invece mi sono dovuto assolutamente ricredere. Vedi? Marco, non è a rigore. La squadra comincia ad avere anche un'impostazione più diverso rispetto a prima, e il gioco d'Allegri comincia a vederti. Sì. Un pensiero che mi è venuto ieri sera guardando la partita è stata questa, però noi dovremmo sempre ringraziare Conte, perché è colui che ha creato di nuovo una mentalità vincente in un gruppo. Certo. E, come dicevate prima, il Milan di Sacchi, anche con Capello, ha avuto continuità. Grazie a creare la mentalità del gruppo e poi gli altri, certo, sono arrivati. Sì. Anche se mi sembra improprio ci può stare così come suggestione, ma mi sembra improprio il parallelo tra Allegri e Capello, perché sono due personalità molto diverse. Allegri è un allenatore molto scaltro, molto intelligente, molto furbo. È stato molto bravo nel fare il lavoro che ha approcciato con grande semplicità e umiltà. Mi prendo il meglio che ho, cerco di non rompere troppo le scatole ai giocatori che sono stressati da morire, e intanto piano piano costruisco però, le mie cose. Ne abbiamo parlato, rivendico, non è che ci volesse un genio a capire che Allegri era un buon allenatore, mi ricordo benissimo i discorsi che facevamo a metà luglio. Allora, quella reazione lì è stata sicuramente una reazione da parte dei tifosi molto umorale, comprensibile, che in qualche modo testimonia la grandezza di Antonio Conte, che è difficilmente recuperabile come allenatore, difficilmente sostituibile come allenatore, però insomma dai, di che stiamo parlando? Secondo me Allegri è uno intelligente, sta facendo bene, la chiave è quella che hai detto tu, cioè secondo me sta anche, dopo anni di fatica improba, da quello che mi risulta, facendo una gestione un pochino più morbida, sì, che questi giocatori si meritano, se vuoi, no? Dopo quello di eccezionale che hanno fatto in questi anni. Certo. E prima con... Va bene così. Poi la vera domanda è tecnica. La vera domanda sarà tecnica nelle 38 partite, capire se la Roma quest'anno riesce a essere all'altezza della Juve. Ma sì, questa è una domanda tecnica, secondo me, che prescinde molto dal discorso Conte-Allegri. Poi certamente. No, piuttosto, prima parlando con Aldo Sereno ho fatto questo parallelo, visto che siamo a Torino e sappiamo bene come il proprietario produca macchine. Mi sembra questa la Juventus una macchina che produce gli stessi risultati, magari va un po' più piano, però consuma molto meno. Sì, questa sensazione è condivisa da molti, devo dire la verità. Sì, ma anche la Roma fin qui ha consumato poco, ha consumato qualche infortunio probabilmente, ma ma in generale le quattro. Beh, però la Roma è una squadra che vive più sull'adrenalina, vive più su, cioè è comunque una squadra che ha bisogno di consumare. Beh, la Roma è più divertente, la Juve è più solida, questo in generale. Detto questo, poi ci sono le eccezioni, perché la difesa della Roma è solidissima e Tevez è divertente, tanto per fare un nome, o Pirlo è divertente, o Vidal è divertente, però cioè, complessivamente sono abbastanza d'accordo con questo tipo di suggestione, questo tipo di separazione delle due categorie, no? Sicuramente la Juve è fatta di acciaio, la Roma è fatta più di musica, più di leggerezza. Detto questo, poi senza l'equilibrio non va da nessuna parte, senza la qualità non va da nessuna parte, quindi sono due squadre da questo punto di vista quasi perfette. Sì. Sono curioso, la Roma ha avuto già tanti problemi fisici, cosa che la Juve non ha avuto fino a questo momento, nonostante ai primi problemi si siano andate a ripescare le statistiche storiche di Allegri, l'anno dei 43 infortuni, eccetera eccetera. E vabbè, basta. Insomma, sì. questa è la sostanza. Dimmi, sì, aspetta, prima del prima della borsa, tutte le volte quando non ci sei tu mi sbaglio, vado in confusione. No, volevo chiederti di Zeman, lo farò dopo la borsa. Lo farò dopo la borsa, sì. Non so, vediamo, ma come siete curiosi. Tutti convocati. È tutto pronto per il tentativo di realizzazione. Marchetti tra i pali che sta saltellando proprio per distrarre Ricky Alvarez, la rincorsa, il tiro di sinistro fuori e ha sbagliato il tiro alto sulla traversa, in pratica ha sbagliato anche questa occasione. Palacio giù, calcio di rigore per l'Inter. Parte Milito, Curci si esalta, arriva Icardi e il pallone finisce fuori, il miracolo di Curci. Calcio di rigore Luan su Ranocchia. Parte Palacio, la parata di Sportiello. Si vede che per liberarsi c'è un contrasto fra i due giocatori, Osvaldo spinge un pochino tra me. È successo un caso analogo domenica a voi a Palermo con Belotti e Nagatomo, per cui è stato fischiato un fallo a favore del nostro. Intanto tra me prima va lui a cercare di ostacolare la corsa. Sì, no. È diverso dall'altra volta, signor. Sì, no. Poi se allora lei è così pignolo, le dico che i rigori c'erano prima su Vidic, anche no. Perché in area hanno fatto blocchi. Faccia vedere anche quelli quando vuole. Prima del rigore, aspettate ora, prima del rigore di Ranocchia ce n'era. Probabilmente ce n'è un altro paio che potevano essere fatti vedere. Sì, ma questo era per farmi uniformità di tutto. Il rigore non è inciso. Questo io sfido un arbitro che annulla un gol così. Forse se c'era lei che arbitrava la poteva fare. No, forse. Assolutamente. Anzi, per la bellezza del gol che vede sempre le cose da un'altra parte, va bene. Ne prendo atto. Tanto che gli diamo a fare il rigore all'Inter, non li segnano, cioè non segna un rigore dal 2012, tanto vale i rigori non darglieli. Al di là di questo e delle solite polemiche intorno agli arbitri, l'Inter sta crescendo, confermo quanto ho detto prima, mi sembra la più seria indiziata e candidata per il terzo posto, almeno a guardare la faccia di questo inizio di stagione, perché torno a ripetere, la Fiorentina non mi convince, ma d'altra parte è stata massacrata dagli infortuni e credo che l'assenza di quei due attaccanti, al di là delle qualità di Bernardeschi e Babacar, su cui siamo tutti pronti a scommettere, parlavamo l'altro giorno, credo che l'assenza di quei due attaccanti faccia tutta la differenza del mondo. Credo che la Fiorentina mi dà sempre l'immagine della bella adolescente che non riesce a diventare donna, a diventare grande. Milan, prove tecniche di trasmissione e siamo sempre lì. Oggi c'è questo incontro clandestino, ma clandestino mica tanto, tra Barbara Berlusconi e Toir a pranzo insieme a Macherio. Chissà che si stanno dicendo adesso all'ora del caffè. Magari Pardo lo sa. Ah? Eccoci. Cosa si stanno dicendo Barbara Berlusconi e Toir? Ma staranno parlando di aspetti, credo, commerciali, sì. Legati allo stadio, legati al merchandising, alle possibili sinergie. Io mi ricordo quando è venuto Toir l'anno scorso a Tiki-Taka, sì. Era una sorta di rendezvous, lui fece due o tre trasmissioni, andò da Fazio, venne da noi per presentarsi, e uno dei titoli fu il fatto che non provava nessun rancore particolare nei confronti della Juve, e dal punto di vista commerciale era certo. Pronto anche a lavorare con la Juve. D'altra parte è Jakarta, cioè voglio dire. Ecco, no, da questo punto di vista Sohir mi sembra assolutamente un manager pragmatico, che ha le idee appunto molto chiare, molto precise in testa, sì. Ha a cuore gli interessi commerciali e sportivi dell'Inter, sta costruendo una buona squadra e quindi giustamente parla col Milan, parla sì. Con la Juve, parla sì. Con la Roma, parla con tutti quelli. Tanto poi quando c'è stato da fare lo scambio che ti ricordi Vucinic, Guarin, cioè, apriti cielo. Però quella è oggettivamente un'altra cosa. Un'altra cosa fino a un certo punto, Pier. Cioè, no, Tohir dovrà fare i conti con il sentire dei tifosi, dai. Io capisco che ci sia una visione romantica, che magari il tifoso pensare che abbiano pranzato insieme Barbara Berlusconi e Tohir può fare, no, un po' di, può dare anche un po' fastidio, perché nessun rapporto col nemico dalla parte. Io non ho cugini, eccetera, esatto, eccetera, eccetera. Però in realtà poi se il calcio cresce, se il calcio italiano cresce, cresce per tutti. Se il calcio a Milano cresce, cresce per tutti. Poi spesso le rivalità portano anche a delle contaminazioni positive. Io faccio sempre l'esempio di Roma. Secondo me non è un caso che Roma e Lazio abbiano vinto due scudetti in due anni consecutivi, perché sì. Conosco abbastanza bene Roma, il contagio che si crea, il tipo di stimolo che c'è, al di là della rivalità profondissima, ma è evidente che insomma. Sì, ma è chiaro. Lo scudetto della Lazio nel 2001 portò la Roma a fare degli investimenti, uno su tutti Batistuta, sì. che poi fu decisivo per vincere sì. Il campionato. Quindi sì. Tante volte, sai, le leggi dell'economia calcistica non vanno di pari passo con quelle. Può valere, quelle del cuore, no? Può valere anche in Spagna tra Barcellona e Real Madrid. Certo, ma Filippo Maria Ricci, non lo dico a caso. Buongiorno a lei. Sai che non possono vivere uno senza l'altro. No, non possono vivere uno senza l'altro. In questo momento non se la passa benissimo né l'una né l'altra. Barcellona ieri sera 0 a 0, uno scialbo 0-0. 0-0. Tremendo 0-0. Barcellona non lo fa mai 0-0. Avranno pagato 22. Sì. Mentre la sera prima il Real Madrid ha pensato bene di andare sotto con l'Elche prima che Cristiano Ronaldo facesse quello che ha fatto, cioè 4. Sai che ci sarà. È bello per il campionato questo 0-0, eh? È bello perché? Perché riequilibra un po', insomma. Sì. Io non so, ho una visione, non so se in Spagna la pensa così. Tutte le volte che il Real Madrid non vincono, ma a Parigi sì. Perdono, secondo me è una buona notizia per il campionato. Quest'anno poi abbiamo il Siviglia che adesso è appaiato col Barcellona, e stasera se il Valencia vince, anche il Valencia va lì su. Adesso poi c'è Siviglia Atletico, poi Valencia Atletico, per cui no, potremmo avere un campionato interessante. Tu sai che sarai a Via Real sabato per il Real Madrid? No, perché se rimango qua, perché la sera sì. C'è Atletico Siviglia, che poi la rivale della Juve, sì. Per cui. Però c'è, lo so, di cosa vuoi parlare? Di quel bell'aereo sarà un aereo nel cielo di Via Real. Questa la sai, Pardo? Ronaldo. La sai, Pier? Sì, non mi ha letto oggi, sì. Madonna, Pier. No, non ho letto. raccontagliela, va Filippo, raccontagliela tu. No, c'è questo nucleo di tifosi nostalgici che ha deciso di affittare del Manchester United. Questi aeretti, esatto, il Manchester United è uno di questi aeretti e lo farà svolazzare sul Madrigal con questa scritta Come Home Ronaldo, che poi casa sua dovrebbe essere a Madeira o in Portogallo, non so. Però diciamo che la seconda o terza casa, quella di Manchester, vogliono che torni a casa nel Cheshire e vada a lietare questo Manchester United. Siamo in assoluta disperazione. Non lo sa, ma io sto organizzando la stessa cosa per lui, per solcare il cielo di Madrid con la scritta Back Home. Torna a Roma Nord. Sì, io guarda che ci tornerei io, lo so che tutti poi mi dicono ma no, ma che fai qua l'Italia, Roma, no, ma tu stai in Spagna, stai benissimo, però io sono un nostalgico e quindi se fai passare qua l'aeretto qua sulla Castellana, io poi vengo, dai. Tu vieni, ci sono le bughe, l'audio, sì. Pazze, no, di lì a Roma, esatto, certo. Intanto Filippo, per dare una dimensione anche della, insomma, del momento del Napoli, mi sembra che l'Atletico Bilbao non abbia avuto un grande inizio di stagione. Allora, lo commentavo ieri sera, qui c'è la sindrome da Champions, perché gli episodi cominciano ad essere tanti. Il Villarreal partì in Champions, passò il preliminare, finì in Serie B tipo 2 o 3 anni fa. Mm-hmm. L'anno scorso aveva sollevato un sacco di difficoltà, prima addirittura il Celta, il Betis, cioè la quarta in classifica, che soprattutto se passa il turno poi fa fatica dopo a combinare i due impegni. Comunque, da quando l'Athletic Bilbao ha schiantato il Napoli praticamente non ha più preso una, ha fatto una vittoria e poi non so se sono 3 sconfitte, cioè 3 punti in campionato. Ieri sera ha perso qui a Vallecas, per cui probabilmente è difficile gestire le due competizioni, soprattutto se non si è abituato a farle, ovviamente. Sì. Perché la quarta è ormai sta diventando una tradizione che gli può andare più o meno male, però ecco, abbiamo questo precedente, il Villarreal, che addirittura è riuscito a finire in Serie B partendo dalla Champions. Sì. Per cui sì, poi hanno una rosa molto corta, e certo questo ci fa anche capire di come sta messo il Napoli, appunto, se vogliamo. Appunto. Come sta messo il Napoli? Una vittoria 3-0 a Levante, poi 4 sconfitte con Malaga, Barcellona, Granada e Aragon. Mi sembra che non sia in un grande momento, insomma. O è andato tutto in quella... No, è andato tutto, quello è vero. È andato tutto e però, adesso non Champions non li vedo lanciatisi, non li vedo benissimo. E, insomma. No, è una rosa molto... Cioè, è un peccato, ma questo si sapeva. Cioè, per noi era una grande occasione per l'Italia fare 3 pari in Champions con la Spagna. Si poteva fare. E invece è andato come è andato, 4-2 tutti a posto, 4-2 tutto a posto, tutti a casa. Grazie Phil. Abbraccio. Ciao, mi raccomando, puntata monografica su Marsiglia, a presto, dobbiamo parlarne. 16-1, 5 vittorie consecutive, il loco Bielsa, roba seria. Adesso mi avete salutato, la prossima volta però parliamone. Ma lo stesso Zeman a Cagliari, non lo so. Sì, uguale. Ciao Phil, ci sentiamo prestissimo. Ciao. Convocati. Because we also competing with other clubs, you know, we have Juventus, Roma, Lazio, AC Milan, Fiorentina, Napoli. Poi l'Inter non batteva l'Atalanta dai tempi del triplete, è un buon segnale. Speriamo. E c'era anche Toir, quindi avete dato anche una bella soddisfazione al presidente. Sì, sì, è sempre bello quando viene il presidente. Fare bene, ma sempre, non solo quando viene. Fiorentina e Napoli. Pierluigi, eccoci. Io prima di salutarti volevo chiederti quella roba su Zeman. No, perché io sono abbastanza duro nei confronti del Cagliari di Zeman, ultimo in classifica, 1 punto, non mi sembra giochi bene, poi tutti, ma sei prevenuto nei confronti di Zeman, un po' sì, non è un allenatore che mi faccio impazzire. Non mi sembra che il Cagliari sia così scarso da specchiarsi in quella classifica. Non mi sembra che abbia avuto un grande inizio di stagione, molto rumore. Per ora per nulla. No, l'inizio è pessimo. Bisogna capire se fa come Bielsa, non stavo scherzando prima. Bielsa pure era partito male, ma ha fatto 2-3 consecutive e Marsiglia sta volando. Si dice spesso che gli allenatori, diciamo, un po' particolari, quelli con un gioco e con delle peculiarità di un certo tipo, magari sono un po' più difficili da metabolizzare, per cui qualche settimana in più ci può volere, no? Per recuperare, per capire quello che vogliono. Nel caso di Zeman, che te devo dire, è una vita che andiamo avanti con Zeman. Sì. Io credo che lui abbia perso l'occasione definitiva della sua carriera 2 anni fa a Roma, sì, quando era arrivato dopo la grande stagione col Pescara e aveva la possibilità veramente di costruire qualcosa di importante. Non era la squadra di adesso, ma sicuramente lui ci ha messo del suo, ha fallito clamorosamente, ha fatto degli errori, ha spaccato il gruppo, insomma, ha imposto. Sì, poi arriva a Cagliari tra 1000 fanfare, credo che sia un allenatore le fanfare sono cosa? Le fanfare sono quelle degli zemaniani. Guarda, credo che sia un allenatore che abbia un'eccellente opinione pubblica, dai. Ecco, io riassumo il tutto in questo modo. Io ho simpatia per Zeman, lo considero un personaggio che ci ha fatto parlare per 15 anni e anche soprattutto all'inizio è stato un ottimo allenatore, veramente un ottimo allenatore con dei concetti molto moderni e molto innovativi. Mi sembra che negli anni non ci sia stata quell'evoluzione, quella crescita, quell'aggiornamento che qualsiasi allenatore in questi anni di carriera dovrebbe avere. Cioè, mi sembra che gli errori siano gli stessi di 20 anni fa e questo è abbastanza grave. Sì. Perseverare in questi errori è molto romantico, molto letterario, ma molto grave. Però vedi che una panca la trova sempre. E il problema insomma. E poi ci sono gli zemaniani. Cioè, gli zemaniani sono quelli che di fronte a questa, a questo tipo di situazione, invece di avere un atteggiamento, diciamo, razionale, perdonano tutto in nome di un'idea, certo, di una fede che è assoluta. Certo. Io ripeto, ho simpatia, spero che di un'idea, di una fede, di una di un'idea politica, no? Di cui Zeman è politico sportiva, di cui Zeman è sempre stato portatore e che ha fatto la sua fortuna. Ma quello che dico è che alla fine, perché ha un'ottima opinione pubblica? Perché una panca comunque la trova sempre. Cioè, a me sta simpatico Zeman e quindi gli auguro di vincere, non gli auguro di perdere con gli stessi errori di 20 anni fa per renderlo personaggio sempre più letterario. Non so se riesco a, certo, a raccontare. Sì, siccome c'è invece una scuola di pensiero di Zemaniani che lo amano alla follia, lo amano anche perché non cambia mai, lo amano certe volte anche perché gli capita di commettere gli stessi errori da 20 anni. Negli anni 90 Zeman era un allenatore eccezionale, è arrivato, ha fatto giocare la Lazio prima e la Roma poi in una maniera incredibile, devo dire soprattutto la Lazio, anche se poi è stato più amato alla Roma, ma sicuramente gli anni della Lazio sono stati anni eccezionali, sì, rompanti, sì. Però vedi che siamo nel 2014 lui è sempre su una panchina, no? In un modo o nell'altro. A Pescara ha fatto bene. A Pescara sì, in altri posti meno. No. Sì, assolutamente. Ah. Grazie Pier. Ciao. Ci vediamo dopo. Tiki Taka. Chiudo con Claudio, provincia di Chieti, Marco, provincia di Torino. Claudio, buongiorno. Ciao, buongiorno. Scusa se mi permetto, però voglio essere un po'... Permettiti pure tutto quello che vuoi. Critica tutto però quello che vuoi. Però mi devi lasciar parlare, non mi devi chiudere, per favore. Io, guarda, certo, sono cortese, sono educato e non sono una persona assolutamente scortese. No, certamente. Vediamo 3 minuti e mezzo di trasmissione. Il calcio in Italia è sempre vecchio, è sempre la stessa cosa, Non voglio essere critico, ma... Io sono interista purtroppo, ok, c'ho il mio cuore interista, ok, non parlo da interista ora. E negli ultimi 4 anni i campionati appena iniziano per noi è sempre penalizzante. Noi già abbiamo Mazzarri che è penalizzante per noi, ci si mettono pure gli errori arbitrali che sono veramente svantaggiosissimi e vanno sempre a vantaggio delle tasche di alcuni. Vedi il rigore dato alla Juve di ieri. La Juve non ha bisogno di questi rigori per vincere, eppure ne ha bisogno. In Germania, il Bayern Monaco, il Borussia, in altre nazioni, il calcio è diventato la ricchezza degli stadi, è diventato la ricchezza delle persone, la salute, le persone, i bambini, le donne agli stadi, la piacevolezza, il sorriso. Qui non c'è nulla di tutto questo, perché siete sempre lì a dare vantaggio a quei giornalisti, a quelle poche firme che firmano e che si firmano con milioni e milioni in tasca, così come pochi giornalisti con milioni e milioni in tasca. Abbiamo raccolto la lamentela di Claudio della provincia di Chieti. Chi vuole estragga i fazzoletti, chi vuole invece no. Marco, provincia di Torino, buongiorno, anch'io sono in vena di lamentele. Cercherò di essere breve. Fuori i fazzoletti tutti quanti, per fortuna è finita, abbiamo 2 minuti. Sì, sì. Allora, la lamentela da tifoso juventino, ex presidente di uno Juventus Club ufficiale per oltre 20 anni, abbiamo chiuso tutto da pochi mesi in aperta polemica con Juventus e per la pessima gestione dei posti all'interno del Juventus Stadium. Si fa un gran parlare di questo stadio, è il migliore d'Italia, in Europa sarebbe appena mediocre. La gestione dei tanti posti liberi che ci sono anche... Ma perché mediocre? Perché appena mediocre? Perché è appena mediocre, perché comunque da una curva ci sono bandieroni, non ci sono posti che vengono rispettati, anzi guai a voler pretendere di vedere rispettato questo... il posto che è segnato sul biglietto. Però Marco, questa non dipende dalla struttura, secondo me è un'eccellente struttura. Dalla struttura, ma dipende da chi gestisce la struttura e non la gestisce in maniera diciamo uniforme. Ci sono dei veti, dei divieti incredibili nei 3/4 dello stadio, in 1/4 dello stadio tutto questo non vale più. Inoltre la gestione dei posti lasciati liberi dagli abbonati viene fatta in maniera di anno in anno diciamo più iniqua e peggiore da parte della Juventus nei confronti dei tifosi e dei club. I club sono sottoposti sempre solo a pagare dei costi proprio in euro per ciascun associato senza avere in cambio nulla. La Juventus cavalca un periodo d'oro, quando il periodo d'oro diventerà d'argento, ovvero arriveremo solo secondi, cambierà tutto e verranno a pregarci allora, a casa. Allora Marco, io ovviamente una risposta su questi punti non gliela so dare. La Juventus ha pieno diritto di replica su tutti questi punti. Se la Juventus vorrà parlare con, o avrà voglia di parlare o di spiegarsi anche pubblicamente, anche da questi microfoni, con i suoi abbonati, con chi si lamenta e chi solleva questi problemi, naturalmente lo potrà fare. Tutti convocati ogni giorno alle 2. Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltritti regia, Claudio Schettone in redazione. Ciao. Il calcio in Italia è sempre vecchio, è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa cosa. I want my players play with balls. Ma allora Michael, ci piacerebbe se ti facessi un giro all'Università della Louisiana. Abbiamo messo su una grande squadra e l'opportunità di avere successo come persona, come studente e l'opportunità di far parte della squadra dell'Università al prossimo campionato. Allora che ne dici? Prometti che verrai a farci visita? Posso fare una domanda? Certo. Mio fratello ed io siamo molto legati e quindi ho paura che se lui deve andare a scuola fuori io non potrò vederlo. E così... Va avanti. Mi stavo chiedendo praticamente con quale frequenza lo potrei vedere. Beh, potrei vedere Michael tutte le volte che vorrai. Ma meglio ancora, alla sua prima partita al Tiger Stadium, ci piacerebbe fossi tu davanti alla squadra al suo ingresso. Cosa pensi dell'idea? Mi piace.